pronto, pronto, pronto, ah, ah, ah, pronto, pronto, pronto. Un messaggio a reti unificate, filo governative e non, a chi lavora e a chi fa il weekend lungo. A tutti gli italiani, io sono una donna e questo è il mio manifesto, il manifesto di una donna. Noi siamo Kill Agamennon e ci state per ascoltare. Non è una riscrittura dell'Agamennone di Eschilo, è un manifesto di una rivoluzione. Noi siamo la scintilla che scocca dal cortocircuito dei valori della nostra epoca. Sigla. No, thank you. No, no, no, no, really, thank you. Thank you so much for taking the time to tell me this. This is a real eye-opener. Yeah, you're right. Buonasera. Buonasera a tutti. Benvenuti. Cominciamo, riga? Dove stanno gli autori? Sofia Zobbina? Non è venuta? Vabbè. Sempre sabotata. Andiamo avanti. Stasera siamo qui con una donna. Una donna. Sì. Buonasera e benvenuta. Grazie. Prego. Io sono solo una semplice donna che sta di fronte a una semplice donna. E le sta chiedendo di amarla. Una donna, scusate. Io sono una donna, non so se si capì. Sono qui per annunciare la fine del mondo per come lo conosciamo. Ovvero, avevamo bisogno di uno spazio, l'obiettivo, diciamo, era conquistare il mondo, ma Cabarextra ce basta. Cabarexalgeri. No, mi scusi se la correggo, ma sarebbe Exalge. Assolutamente, io sono una donna che accetta assolutamente le critiche da parte dell'opposizione. Infatti noi siamo qui a Exalgeri per fare un piccolo esperimento. No, vabbè, esperimento. È così, però mi exalgera, scusi. Ma sa che lei è proprio simpatica. È per questo che l'ho chiamata. Allora, ovvero, qui siamo a Exalgeri per fare un piccolo esperimento, ovvero per iniziare piano piano, un piano di confinamento di tutti gli uomini. Non in Albania, ovviamente, piuttosto in un angolo. E vado avanti. Ok. Ecco, a inizio, diciamo, un mondo in cui gli uomini perdono i loro diritti fondamentali, vengono rinchiusi nelle case e non possono più partecipare alla vita pubblica. Che diciamo, cioè, non è che prima partecipassero. Non ha mica tutti i torti. Ma comunque questo esperimento che vuole fare, no? Cioè, comunque, da capire è interessante, ma come lo vorrebbe attuare? Ma un po' come in Afghanistan. Ah. Sostanzialmente, più o meno. E quindi, ma con gli uomini, perché gli uomini sono una razza da proteggere, cioè bisogna proteggerli, insomma. Cioè, che sennò quelli... Lo sapete che il tasso di suicidio degli uomini è nettamente maggiore rispetto a quello delle donne, no? E quindi vanno protetti, sennò quelli si ammazzano. E quindi, diciamo, vorrei confinarli in modo tale che si eviti che si compia il maschicidio. Ecco, perché sostanzialmente, no, c'è stato anche un caso storico molto importante di questa donna che si chiamava Clitennestra, che era la moglie di Agamennone. E sostanzialmente il marito torna a casa dopo 10 anni che non vede la moglie, va dalla moglie, la moglie che lo aspetta, lui tutto contento, felice, felice, poi arriva a casa, si eccita talmente tanto che sbatte contro una parete, sbatte contro un'altra parete e si suicida. Cioè, non è lei, cioè, tutti dicono ah, Clitennestra ha ammazzato il marito, ma no, ma lui era così eccitato che c'è questa cosa degli uomini che sono un po' isterici. Diciamo, cioè, quando si eccitano troppo iniziano a sbattere un po' come le falene da una parte all'altra della stanza e si maschicidano. E questo è maschicidio. Quindi lei sostiene che Eschilo aveva già capito che il tasso dei suicidi maschili era già un fatto. Si è suicidato. Ah. Ecco, adesso c'è pure anche questa questione, no, dell'intelligenza artificiale, che diciamocelo, voglio dire, per me è la deficienza artificiale, anche perché, voglio dire, una macchina non potrà mai sostituire una donna, ma un uomo sì. Beh, dicono appunto che è più difficile stare al mondo per gli uomini che per le donne. Assolutamente, infatti, un uomo sì può essere sostituito da una macchina. Sentiamo la nostra benvenuta mia collega Velina 2, ecco. Buonasera e benvenuta. 10 punti per cui un vibratore è meglio di un uomo. Vi ringrazio per l'invito, questo è il mio elenco. Sono un'esperta di elenchi, in particolare in cose che capitano naturalmente, e in particolare vorrei parlare di questi 10 punti che abbiamo analizzato. Innanzitutto, di quanti litri d'acqua ha bisogno un uomo. Un vibratore non utilizza l'acqua, non spreca l'acqua. Secondo punto, non ti dice se è pro o contro l'aborto. Terzo punto, puoi scegliere il colore che ti piace di più. Quarto punto, non deve essere epilettico per vibrare. Non rischia di morire mentre lo sbatti. Lo puoi manipolare senza usare il cervello. Non scrive poco l'accento. Una volta che lo lavi rimane pulito. Lo puoi smontare e mettere nel cassetto. È scalabile e modulabile come il nostro spettacolo. E come decimo punto, non devi ascoltare il suo feedback dopo che l'hai usato. Grazie. A voi. Ci vediamo dopo la pubblicità. Kill Agamennon, uno spettacolo glitterato, paiettato, luminoso, attraente, come una sedicenne per un vecchio cinquantenne che aspetta solo, o forse no, che lei diventi maggiorenne. Noi siamo Sofia Zobina, regista dello spettacolo, Beatrice Botticini, coreografa dello spettacolo, Carolina Tomassi, attrice. Kill Agamennon è quello che succederebbe se le veline, le letterine, le vallette di quei programmi berlusconiani della quale alla fine siamo tutti quanti figli decidessero di prendere possesso o uccidere il presentatore maschio di punta, tipo Umberto Smaila. Esatto. E se tutto questo fosse soltanto il sogno o il piano di una donna di potere che tutti conosciamo. Ecco, diciamo che il nostro obiettivo è questo, di iniziare a settare i ritmi della società seguendo il ciclo delle donne, quindi quello femminile, e non più quello degli uomini, ovvero una settimana al mese spargimento di sangue. Ecco. Questo è quanto. E adesso avremo qui delle domande per voi, appositamente preparate oggi. E certo, io mica me ne preparo più di io ho più di 86, meno di 106, perché comunque sono scaramantica. Assolutamente. Certo. E sempre si legge l'oroscopo. E quindi in questo caso quelle che ci hanno invitato, ovvero cioè noi che ci siamo impossessate dello studio, abbiamo deciso di fare questo, diciamo, esperimento. Abbiamo confinato gli uomini e abbiamo lasciato le donne, perché giustamente qualcuno ci deve essere, se no parlo col muro come al solito. E quindi allora vabbè, vogliamo cominciare. Non sei così pesante. So pesante, ragazzi, lo so. Oh, vabbè, so dai, su. Sono una donna proprio pesante. Quindi, ragazze, Laura, se ci potete. Se volete raggiungerci, così, no? non mordiamo, ecco, attenta a sta pedana, mi raccomando, ecco, brave. No, perché io sempre cado. Allora, la prima domanda: vi ha mai eccitato l'idea di essere la mamma di? Assolutamente no. Nemmeno. Posto con la seconda. Vi fate la coda ai capelli perché? Perché ho i capelli sporchi. Perché quando non mi piacciono i capelli sciolti li lego, perché quando sono comoda. Deve essere più veloce questa risposta. Sì. Deve essere più botta. Sì. Ci pensano botta, troppo. Non pensateci. Quanto vali? 7. Botto. E quanto costi? Un botto. No, troppo. Troppo se tempo. Calpesti un piede a un uomo di potere, che dici? Non ho capito la domanda. Se calpesti il piede a un uomo di potere, che dici? veloce, vai, vai. Non lo so. Non lo so. Ho vinto. Ah, eccoci. Oh, senza pensarci. Qual è l'ultima donna che hai ascoltato su Spotify? Lilia Dean. Ah, chi è? Bravissima, cantante bravissima. Io ascolto soltanto uomini che menavano le proprie mogli e adesso sono morti. Tre aggettivi per la tua donna ideale. Bella, intelligente, simpatica, l'amica che mi piace. Dio, io non ce la faccio a rispondere. Lo saluti, poi scappi correndo, chi è? Lo saluti, poi scappo correndo. Dio, Ibrahimovic. Bello, bello, ci piace. Tu? Non mi viene in mente. Jacopo. Perché ti vergogni, Martina? Non lo so, perché sono davanti Martina a tutta questa gente. È profonda, è artista anche lei. Se arrivasse un cavallo sarebbe? Nero. Furia cavallo dell'West. Hot. Vabbè, altre domande. Ti dichiari donna donna? Certo. E quanta percentuale di uomo c'è in te? 50. Zero. No. Non lo so, io dico zero. Ce l'ho. Non so se è vero. Qual è la categoria che più ti sta sul cazzo? Veloce. Snob. Urca, calciatori. Come Ibrahimovic. Sì. Infatti è un conflitto incredibile dentro di me. Vabbè. Peggior complimento che si può fare a una donna? Urca, difficile. Un commento cioè sull'estetica. Oh, che bel culo. Tuo padre ti dice che bel culo, che fai? Gli dico che cazzo dici. Il migliore amico di tuo padre ti dice che bel culo? Gli dico che cazzo dici, stronzo. Chiamo il 118. Perché dici non c'ha l'età per no, dire certe cose. Vuol dire che sta andando. Esatto. Ma per lui o per te? Per lui, per lui. Inventati un nuovo divieto. Allora, vorrei vietare che si cioè vorrei vietare che si nel momento in cui chiedi a qualcuno, cioè conosci qualcuno di nuovo, gli chiedi che lavoro fa. E un nuovo diritto invece? Diritto di di che cosa hai più paura? Di queste domande. Forza! Io? Urca, di cosa ho più paura? Dell'abbandono. Ti senti cattiva? Tantissimo. Ma non lo sono, pare. Ti senti buona? Sì, sono buona. Certo, ovviamente, cos'altro poteva rispondere? Direi che abbiamo fatto. Noi abbiamo fatto. Basta. Bravissime. Quindi facciamo partire un applauso. Ma. Grazie. Questa era la versione podcast comunque. Cioè questa era una versione soft. Ammazza. Di tutto. Vabbè, posso tornare a parlare con la mia voce normale. Esatto, tutte quante noi. Voce... C'avevo il naso un po' tappato. Non vi ha ricordato nessuno? No, una donna. No. Zero proprio. Zero, vero? Allora, benvenute, benvenuti a Cabaret Extra Voltaire, alla nostra sesta puntata di questo meraviglioso podcast che Martina, applauso, mi ha convinta ad avviare, ed è un podcast che ha l'idea di, diciamo, far parlare la drammaturgia femminile emergente, quindi tutti quei testi scritti da donne meravigliose che non hanno avuto altro spazio, e quindi è uno spazio un po' anche di sperimentazione, come avete visto anche stasera. E siamo già alla nostra sesta puntata, siamo molto contente di ospitare questa sera Sofia, Beatrice e Carolina. Ovviamente il tutto è partito da Martina, che è partita... Oggi ho perso la voce, non mi... che è venuta invece nel mio altro podcast che si chiama Cabaret Voltaire e che invece è uno spazio più di... diciamo sperimentazione artistica che cerca di mettere un po' in discussione la nostra tradizione, la nostra cultura, e l'ho ospitata perché ha tradotto un testo di Simona Semenic, che appunto è una emergente drammaturga femmina, donna. Non più tanto emergente, però sia una drammaturga femmina. Slovena. E dopo di questo abbiamo pensato di fare un, diciamo, un lavoro insieme invece proprio dedicato a questo tema. Ed è stata proprio Martina a convincermi stasera a ospitare Sofia, che appunto non l'avresti fatto. Non l'avrei fatto. Sì, perché io avevo visto già Sofia con un testo Io amo Italia al Fringe Festival, e quindi l'ho invitata qua chiedendogli appunto di portare quello che voleva, e mi ha proposto appunto di portare questo lavoro, questo testo. Te la sei pentita? Domanda no, veloce. Assolutamente. Killa Agamennon, però appunto io non sapevo nulla, sapevo che era uno spettacolo glitterato, e poi siamo andati un po' a scatola chiusa, e quindi appunto volevo chiedervi un po' come era nato questo progetto, come se è la prima volta che collaborate, se c'è effettivamente un testo o non c'è, e come si svilupperà e come si è sviluppato questo lavoro. Allora, il progetto è nato perché... Non ricordo più. No, perché c'ho l'influenza, scusate, devo un attimo ripigliarmi. Allora, il progetto nasce dal fatto che io ho visto un sacco di video della Meloni in quest'ultimo periodo. Cioè, non so, questo guilty pleasure, no? Recentemente ho iniziato a vedermi tutti i video. Dicevo, ma perché Sofia? Perché? Forse perché devi fare uno spettacolo. E quindi praticamente ho iniziato a scrivere questo monologo di Giorgia Meloni, che, cioè, di una donna, perché Giorgia Meloni non è un nome che io vorrei dire mai, cioè io vorrei dire semplicemente una donna, e in cui una donna andava al bar e iniziava a sfogarsi dicendo... cioè essere una donna di potere è comunque un dito nel culo, cioè comincia a fare tutto sto monologo al barista che non ce la fa più, che si è rotta le palle, no? Perché comunque, non so, mi interessava la figura della donna di potere stronza, soprattutto perché io ho fatto alla Paolo Grassi, che è la scuola che ho fatto io, la Clitennestra, cioè facevo io Clitennestra, l'Orestea di Eschilo, e mi ricordo che tutti dicevano, no, questa è la cagna, veniva chiamata la cagna, no? L'Orestea, lei è proprio una merda, ma effettivamente lei si comporta da stronza, no, perché a me non piacciono le dietrologie, perché tutti dicono, però sai, Agamennone le ha ucciso i figli, ah, poverina, lei è traumatizzata, perché poi Agamennone prima le ha ucciso i figli che aveva con l'altro compagno, poi l'ha stuprata, se l'è portata a sé, e poi ha ucciso la figlia per far sì che i venti fossero favorevoli per la guerra di Troia, no? per partire verso Troia da Micene. E quindi c'è questa giustificazione del fatto che poi lui effettivamente, quando torna dalla guerra, lei ammazza lui e ammazza la tipa con cui sta, Cassandra, che è la figlia di Priamo e la veggente, eccetera eccetera. E io ho pensato, ma uno avrà il diritto di essere stronzo e basta? Cioè, solo perché è una donna, allora deve essere o giustificata o comunque, cioè, deve essere traumatizzata. Cioè, non è come se non fosse accettato, perché se sei una donna, cioè, o sei intelligente e buona in qualche maniera, o traumatizzata, cioè, è sbagliato, no? Perché alla fine anche la cattiveria fa parte di tutti noi, e ci sta che faccia parte anche delle donne. E quindi ho iniziato a pensarla un po' in maniera, adesso dirò questo termine, antifemminista, cioè, perché mi fa ridere anche dirlo, però effettivamente quando si vede anche la logica femminista, cioè gli ideali femministi, comunque sono ideali comunque belli, cioè non so, positivi, no? Cioè il femminismo è un ideale quasi di equità rispetto ai sessi, no? Femminismo non è le donne sono meglio degli uomini, ma siamo pari. Invece secondo me no, le donne sono meglio degli uomini. Cioè io non sono femminista per questo, perché non riesco a dire io sono per i valori, capito? Siamo amici, sostegno tra donne. Non esiste, cioè sì esiste, però comunque c'è qualcosa di sbagliato secondo me nel profondo, perché non accetta la cattiveria, questo ideale altissimo, utopia, come il comunismo. Se non accetti la cattiveria non ce la fai. E quindi praticamente poi vabbè, loro due sono due persone incredibili, adesso parlerò anche di loro. Praticamente Beatrice è una coreografa, una danzatrice incredibile e anche un'organizzatrice dell'ospedale, cioè lei fa tutto, è veramente un personaggio assurdo. E Carolina è anche lei, è partita, ha fatto organizzazione, ha fatto l'attrice, ha fatto la cantante, l'attrice bambina, cioè io avevo intorno a me queste due figure, loro non si conoscevano tra di loro e quindi ho detto caspita, ma sono due persone fichissime, cioè io ho questa idea che comunque adesso vi spiegherò che non è soltanto partita dalla donna stronza eccetera, ma anche partita dal fatto che io sono super appassionata di programmi berlusconiani, cioè di tutto il mondo berlusconismo nostalgico sostanzialmente, e quindi ho detto cazzo, ma sarebbe proprio bello, no, vedere tutte queste veline che ammazzano Berlusconi, cioè ammazzano Umberto Smaila e poi non sanno però come condurre il programma, no, e quindi non si sa cosa succede, succede la follia, quindi ho detto caspita, ma facciamo vedere queste due fighe e con me figa in mezzo, cioè facciamo qualcosa di figo sostanzialmente questo. Poi sua madre ha detto una cosa geniale, fa voi siete belle, siete simpatiche, siete intelligenti e non siete rifatte, e quindi ho detto perfetto, siamo noi, cioè noi adesso conquisteremo il mondo del teatro. Questa è il mio piccolo riassunto, adesso lascio la parola ai miei colleghi. Grazie. Sì, come ha detto Sofia, comunque c'è questo rimando a una logica femminista, ecco, di cui comunque abbiamo analizzato alcuni aspetti. Quello che ci preme di più sottolineare è il fatto che, come ci siamo dette, non siamo da un lato né paladine né martiri. È questo, per cui una donna nella società attuale si deve sentire per forza o paladina per qualche valore, quindi non è neanche libera di vivere in maniera anche proprio libera. Spontanea, esatto, perché ogni mia azione in quanto donna viene letta appunto come un manifesto di quello che può essere poi una logica femminista, quindi io non sono libera in quanto donna, ma sono sempre portatrice di valori. Invece in questo nostro volerci così mostrare anche con questi glitter, con queste paillette, c'è quasi una logica proprio di liberazione, ecco. E dall'altro lato rifugiamo anche quella che è un po' la logica del martirio, se vogliamo, per questi stessi valori. Quello diventa un po' retorico, poi viene un po' inflazionato e poi ci si gioca e diventa anche un po' ipocrita. Poi assolutamente, quindi rifugiamo proprio appunto da questa ipocrisia. E il gioco che ci piace fare appunto anche nel nostro spettacolo è anche così sviluppare un'interazione col nostro pubblico, per cui i nostri personaggi interagiscono proprio come se fossero in uno studio televisivo e poi lasciare al pubblico anche, secondo la propria sensibilità, la lettura di quelle che sono le nostre azioni e le nostre parole in scena. Grazie. Hai visto? La mia collaboratrice. Cos'altro aggiungere? Aggiungerei che sicuramente abbiamo avuto la fortuna di poterci trovare a livello di ironia, che non è una cosa così scontata oggigiorno, e che attraverso l'ironia si possono dire tantissime cose, tra le quali certe verità, e abbiamo capito che il meccanismo del cortocircuito tra di noi, tra i nostri personaggi e quindi triangolando con il pubblico, cioè ci porta tutti quanti poi a guardarci e dire aspetta, cioè c'è qualcosa che non va e che magari abbiamo assorbito giustamente come spugne, perché alla fine tutti noi siamo un po' il risultato di quello che abbiamo visto, abbiamo ascoltato e di quello che ci siamo detti tra di noi, no? E quindi sì, quindi pur di non essere replicanti siamo un po' fuorvianti e surreali magari, però ecco, tutto questo è per divertirci al tempo stesso. Ma infatti penso che sia un tema interessante, perché quando abbiamo invitato Diego Piemontese, lui stesso ha fatto un discorso dicendo che era arrivato un po' a un punto di capire che per parlare di certe tematiche anche attuali, complesse e diciamo difficili, di diritti umani, femminismo, eccetera, eccetera, si era reso conto che il dialogo, diciamo, martirico, comunque diciamo critico, triste, depresso, incazzato, a un certo punto non riuscisse tanto ad arrivare a un pubblico, comunque creasse forse troppa pesantezza, e mi sembra che invece ci sia molto di più una tendenza ultimamente a usare un po' più un linguaggio ironico, di stand up comedy, irriverente. Che non so se magari sto un po' interpretando, sì, qualcosa. Lui diceva anche un po' del mondo del teatro che tende a intellettualizzare troppo e quindi a fare questi discorsi molto astratti sul femminismo, su varie tematiche, che poi però non arrivano a un pubblico ampio, perché magari appunto fanno parte di quell'elite culturale che comprende ed è dentro queste tematiche, e quindi alla fine sì, stiamo parlandoci addosso, mentre se si utilizza un linguaggio ironico è più facile arrivare a tutti, e quindi in realtà se stai portando una tematica importante, o almeno che per te è importante, che può essere in questo caso anche dire ok, io sono una donna, però cioè basta fare differenze, no? Donna, uomo, cioè alla fine posso sentirmi spontanea e libera e non per forza portatrice di valori come dicevi tu, e se lo dico attraverso, cioè facendo ridere le persone, poi alla fine è lì che sto comunicando, perché sennò allora siamo noi bravi a fare il teatro, la cultura, e quindi comunque la scelta dell'ironia magari non è neanche così troppo ragionata, però alla fine arriva. Infatti un mio caro amico mi ha detto una cosa geniale, mi ha detto: questo spettacolo piacerà sia alle persone di destra che di sinistra, no? Perché comunque quelli di destra non lo capiranno e quelli di sinistra non ridono, quelli di sinistra esatto. Capiscono che l'ha presa per il culo, però quelli... esatto. Però esatto. E quindi sì, sostanzialmente sì. No, poi c'è da dire che cioè noi non ci riteniamo, cioè non è che non è la, non c'è differenza tra uomo e donna, no, sì c'è, e noi siamo meglio, non abbiamo paura di dirlo, cioè proprio c'è una presa di posizione arrogante, e a me piacciono le prese di posizione arroganti, perché sennò mi rompo le palle, e tutte noi tre ci troviamo molto su questa cosa, odiamo i maschi decostruiti. Ma perché non è vero, ragazzi, basta. Siete voi stessi. Cazzo. Cioè non è vero, siete voi stessi, dite le cose come stanno. Cioè, più che altro perché allora il catcalling secondo me è come l'esorcismo, cioè come l'esorcismo, nel senso che tu se non lo esorcizzi subito, cioè non dici subito ah sì, sono un maschio scemo, ah. Cioè capito? Poi vai in strada e questa cosa l'hai trattenuta talmente tanto che devi commentare il culo di una dodicenne, questo è il problema. Cioè tu devi tirarlo fuori subito, così almeno abbiamo capito chi sei. E non è sbagliato, perché c'è questa cosa proprio della repressione della propria parte cattiva, no? Perché adesso siamo tutti paladini di tante questioni, che per l'amor di Dio ci sta, perché bisogna essere politicamente impegnati, quando una cosa non ti piace, non ti piace. Però allo stesso tempo è ipocrita pensare di essere buoni e perfetti, tutti. Cioè, soprattutto gli uomini, che comunque continuano ad essere privilegiati. Cioè, nel senso, non è che qualcuno ha rinunciato a un pezzettino del proprio privilegio per me. Mi pare. Sì, quello su cui stiamo ragionando è anche un po' trovarci in un'epoca comunque di transizione, e quindi lavorare anche su questo paradosso di presentarci in scena come veline, che quindi è, se vogliamo, esatto, vintage, è quasi un archetipo. Abbiamo parlato di Clitennestra di Agamennone, ci teniamo a specificare che questo lavoro non è una riscrittura dell'Agamennone, però ecco, allo stesso tempo facciamo riferimento a queste figure che sono presenti nella nostra cultura, e si vuole far finta che non esistano, che non siano esistite, e non è una rivendicazione la nostra, però allo stesso tempo è una presa di coscienza del fatto che sì, le veline ci sono, a qualcuno va bene fare la velina, poi personalmente venendo dal mondo della danza la prima cosa che mi hanno detto presa in accademia è ma quindi farai la velina? Sì certo, figurati, danza contemporanea, ci spalmiamo per terra, farò la velina. Quindi è un po' con la questione anche di presentarsi, no, questo gioco tra archetipi, prendendo coscienza dell'epoca in cui viviamo, per cui capiamo che siamo in un'epoca di forte transizione, per cui appunto dopo i movimenti femministi degli anni 70 si è creato una letteratura, degli studi, un nuovo femminismo, e allo stesso tempo ci troviamo davanti a questi quasi mancanza di nuovi valori di riferimento, per cui poi appunto abbiamo questi estremi di cui leggiamo sempre nella cronaca, e allo stesso tempo... Maschicidi. I maschicini di cui abbiamo parlato dove prima, dove si suicidano buttandosi dalla parete. Però veramente abbiamo, cioè il tasso di suicidi è maggiore per gli uomini, e questo non vogliamo tirare in ballo il patriarcato, però c'entra, allo stesso tempo indossiamo dei glitter, quindi cosa? Questo ci fa, non so, siamo meno femministe perché ci mostriamo in un determinato modo, poi nello spettacolo usiamo anche tanto il fisico, quindi è un po' sì, una lettura di paradosso. Siamo anche la molestia. È quasi un paradosso su cui stiamo lavorando, quindi dopo questa. E per rispondere all'ultimo punto della tua domanda di prima, sì, il testo c'è, esiste. Okay. Esiste. Esiste. No. Esiste, ma è in continua evoluzione, e poi essendo comunque, cioè allora io diciamo ho dato una linea, nel senso ci sono delle parti da scritte dall'inizio, mm-hmm. E io poi ho dato una linea di scrittura, diciamo che arrivo con un'idea e dico ok, adesso cerchiamo di capire, cioè è una scrittura quasi a sketch. Cioè, quindi comunque poi proviamo insieme le battute che ci tornano meglio. Cioè, non è una roba in cui io arrivo col testo e dico leggetelo. Cioè, soltanto sulle mie parti, alcune mie parti sono proprio scritte da tempo, alcune parti hanno avuto degli input molto forti, altre invece comunque nascono nel lavoro. E anche un po' a seconda delle situazioni in cui... Soprattutto a seconda delle situazioni in cui siamo. Esatto. Cioè, qui abbiamo fatto apposta questa cosa, infatti esatto. Avevamo i fogli. Oggi pomeriggio abbiamo fatto questa cosa. E perché appunto la situazione lo richiedeva. Però in altre situazioni, per esempio una volta ci siamo capitati in questo posto dove c'era una mostra site specific con tipo tutte delle sculture in neon, e quindi abbiamo preso anche quello spazio e abbiamo reso parte dello spettacolo. Cioè ogni volta ci adattiamo, infatti è scalabile come appunto un vibratore che dicevamo prima, che si può smontare, scalare, mettere nel cassetto come esatto. Noi. E da, cioè, quando è che è nato questo progetto spettacolo testo? Un anno fa circa, sì, un po' di più, un po' di meno di un anno fa, forse. Tipo 6-7-8 mesi, qualcosa del genere. Sì, Sofia è venuta da me e mi ha detto: Carolina, ho in mente un progetto, tu saresti perfetta. E io le ho detto: ok Sofì, però io vorrei fare questi due personaggi che sto continuando a guardarmi in loop. E lei mi fa: sì, sono perfetti. Non voglio dire i nomi perché anch'io non... No, vabbè, puoi dirli. Quali possiamo dire? Qua si può dire la Fagnani e Ilari Blasi. Ilari Blasi purtroppo stasera non l'ho potuta fare. Però io comunque so toro come lei, so pigra. E vabbè, quindi alla fine ho deciso di fare solo un personaggio, va bene? Ok. Che poi non citiamo mai però nello spettacolo. Cioè esatto. Nello spettacolo non si sente mai la parola Belve, la parola Fagnani, la parola... Cioè niente che abbia a che vedere col reale, reale. Chiaramente c'è un'imitazione che non è neanche è volutamente un'imitazione nostra. Cioè è molto personale, non è neanche super realistica. Però sì. Ma oggi l'avete fatto tutto o ci sono altre parti? No, oggi abbiamo fatto proprio una roba apposta per qua. Cioè questa roba qui non c'era fino a oggi. Sì, poi abbiamo altri personaggi, altri quadri, altri sketch. E dove pensate di portarlo in futuro? Allora, adesso siamo in contatto con delle produzioni, che non dirò quali sono perché... Scaramantiche. E poi diciamo abbiamo vinto inizialmente una residenza a Brescia in cui abbiamo fatto il primo studio e adesso siamo in contatto con altre residenze su Torino e anche a Roma, quindi piano piano diciamo in teoria l'anno prossimo potrebbe andare in scena. Ottimo. Ok. Quindi oggi era tipo avete preso un paio di quadri? No, oggi li abbiamo inventati per voi. Ok. Perfetto. Per noi. Certo. Cioè, è questo anche che mi piace dire. Cioè, ecco, adesso dirò una cosa che mi piace, proprio che sono orgogliosa di dire. Cioè, il teatro oggi, ragazzi, non è come prima. Soprattutto se sei una persona giovane che non ha, la mamma che lo mantiene e quindi comunque non hai i soldi per effettivamente, a meno che non hai una produzione dietro, ma chiaramente se sei giovane devi prima farti conoscere, eccetera. E quindi noi, cioè, l'obiettivo mio era quello di fare uno spettacolo appunto scalabile, modulabile, adattabile. Cioè, una roba per cui io mi diverto a farla e la posso adattare, la posso vendere dove voglio, come voglio, a chi voglio. E quindi sostanzialmente noi abbiamo, cioè proprio dall'inizio, strutturato tutto in modo tale che possa essere proprio, cioè, semplice, una cosa semplice, come solo di idee, Come un vibratore. Come vibratore. Fantastica. Esatto. Cioè una cosa dove l'idea, l'immaginazione come vibratore serve tantissimo, no? E sì, basando tutto sulla scrittura, sulla bravura e cioè. Sì, sicuramente siamo bravura, fortunate tra noi tre che ci troviamo bene. Esatto, sì, perché comunque è difficile, cioè scrivere così dal nulla non è una cosa semplice, quando trovi delle persone con cui riesci a farlo è bello. Comunque è anche un progetto che comunque è molto stimolante perché ogni volta ti porta... Assolutamente. Ci divertiamo. Sì, poi vediamo sempre i merdoni diversi che dobbiamo pestare, cioè comunque sempre una... scegliere quale, no? E quindi la prossima ancora non si sa. La prossima data? Allora, sì. 27 e 28 novembre al Moca a Brescia, che è una villona con dentro un teatro bellissimo in via Moretto, e lì facciamo, in teoria, allunghiamo, cioè facciamo, perché prima avevamo presentato 35 minuti, adesso arriveremo almeno un'oretta. Ma forse hai già un po' risposto a questa domanda che ti sto per fare, però mi sembra interessante magari indagarla un po' di più rispetto lo chiedo a tutte e tre in realtà, un po' al senso del teatro per voi, cioè venite tutte da esperienze diverse e avete fatto scuole diverse, poi non so se volete anche spiegarlo al pubblico un po', io vi ho studiate sull'internet. Io ho paura che mi menano appena esco da qua. sento un gelo. Sì, abbiamo fatto le famose mamme accademie, le abbiamo fatte. Esatto, sì, sì. E quindi mi chiedo un po' appunto, come dicevi tu, no? Oggi per te che cos'è, cioè per voi che cos'è il teatro, che cos'è il messaggio che volete dare, cioè anche la scelta di parlare di specifici temi molto attuali, molto critici, in questa maniera anche molto irriverente, ironica, se per voi è un intento, se invece, cioè qual è anche quello che volete trasmettere al pubblico e in qualche modo anche, visto che siamo un podcast legato molto anche alla drammaturgia, quali sono le difficoltà oggi di approcciarsi a un testo nuovo, no? Di scrivere, di pensare all'idea, di pensare, cioè se pensate al pubblico, se invece no, non lo so, insomma, qual è un po' il processo? Pubblico assolutamente sì, cioè il pubblico, diciamo, è la prima cosa. Perché non penso che sia sempre stato così, cioè penso, no, non lo so cosa ne pensate voi, però in passato mi sembra sì, cioè che ci fosse anche molto una tradizione di, sì, sì, assolutamente. No, di stare dietro a dei grandi maestri, di riportare dei testi classici, non so se è ancora così e se... No, no, beh, no, se posso dire qualcosa in favore delle accademie, comunque penso che siamo state formate... No, è vero, questo è vero. No, è vero, con un'attenzione, un'attenzione all'autorialità. Cosa? No, se volete dire da dove... Sì, Accademia dei Filodrammatici. Paolo Grassi. Accademia Susanna Beltrami Dance sì. House. E quindi no, penso che comunque per quanto riguarda la nostra generazione ci sia un'attenzione da parte della formazione a sottolineare quanto sia importante oggi l'autorialità e trovare appunto il proprio spirito critico e cercare di farne qualcosa di pratico. E quindi sì, il teatro è qualcosa di, cioè, di vivo, quindi è rendere il proprio spirito critico vivo. E farlo entrare in relazione tra il tuo corpo, i tuoi partner di scena e il pubblico. Questo è. Anche questo tema del pubblico ne abbiamo parlato già un po' di volte in varie puntate di Cabaret Extra, secondo me non è scontato perché per tanto tempo è stato anche un teatro che non so quanto volesse coinvolgere il pubblico, ecco, no? Cioè voi ci avete chiamato sul palco. E però, no, per tanto tempo è stato così il grande per questo che la gente era, non va più. Più di intrattenimento, no? Esatto. Sì. E quindi invece adesso c'è molto il desiderio di rompere quella scena. La quarta, no? Parete non dovrebbe esistere. Esatto. Non esatto. Deve esistere. Cioè per me la quarta parete è una violenza, è una molestia. Perché comunque tu paghi un biglietto per essere ignorato. Cioè veramente assurdo. Cioè. Sì, per me il teatro è anche un po'... una battaglia con l'ego, se vogliamo, nel senso che soprattutto magari provenendo più dal mondo della performing arts, così c'è tanto il mettersi in primo piano proprio come persona, come individuo, come artista, e a volte ci si dimentica di quello che è il pubblico che vuole essere protagonista, perché adesso chiunque può esserlo potenzialmente, e quindi forse il nostro gioco, se vogliamo definirlo così, sta anche questo, in sempre calibrare e rilanciare la proposta in modo da stuzzicare, se vogliamo, il pubblico e poi chiederci uscite di qua che abbiamo fatto incazzare oggi, senza voler essere provocatorie, però è comunque quello che dicevi, è così, fomentare uno spirito critico legato poi all'ego di ognuno, ecco, ego inteso come nel modo più ampio possibile. Sì, poi non so se... Ecco, mi chiedo quindi nella vostra esperienza come reagisce il pubblico a questa cosa, perché non so neanche quanto, cioè mi sembra che per quanto sia una cosa che in realtà va avanti già dalla seconda metà degli anni, cioè del Novecento, non so quanto il pubblico sia pronto ad approcciarsi a una cosa del genere, no? Soprattutto chi è più abbonato al teatro e che ha un po' un'idea più stereotipata. Il problema sono proprio le idee, cioè secondo me la gente è un periodo storico in cui la gente si fa un sacco di aspettative, un sacco di idee, cioè e non c'è più la cosa di dire vado un po' nel nulla a vedere cosa mi regala l'ignoto, no? E il bello di questo spettacolo e soprattutto anche il motivo per cui non diamo informazioni prima come non le abbiamo date a voi è comunque che per una volta può essere cazzo una sorpresa, no? È uno spettacolo glitterato, paiettato, luminoso al 30, questo è la nostra sinossi, che uno dice e allora? Appunto, e allora vieni a vedere, cioè vieni a vedere, paghi i soldi e verrai ricompensato perché verrai tenuto in considerazione. Chiaramente adesso è un podcast, sono stati 15 minuti, non abbiamo avuto tempo di prendervi e insultarvi o diciamo stare con voi troppo, però sostanzialmente quando noi facciamo lo spettacolo, quelle volte che ci è capitato di farlo, quindi due, abbiamo sempre coinvolto il pubblico e questa cosa qua secondo me, cioè, è fondamentale, anche perché non ci si può più permettere la quarta parete. La quarta parete è una cosa che esiste da 50, da 100 anni forse, non esisteva, non è mai esistita prima, e soprattutto non è credibile perché non sei il cinema. Cioè io ti credo se tu fai finta con me che tu sei un re, no? Tu sei il re che sta uccidendo la moglie, però se giochiamo insieme io ci credo, se invece tu ti isoli dico che coglione, guarda, non è vero. Cioè non è vero, non siamo al cinema, non c'è l'effetto speciale dove lui gli taglia la testa, lo vedo che è finto, coltello. E quindi funziona? Sì. Ah, scusa, hai chiesto se funziona? No, sì, funziona. Cioè, no, nel senso, volevo capire se appunto anche nella vostra esperienza personale il pubblico reagisce in qualche modo o è... In qualsiasi modo decida di reagire è reale, e quindi tu devi prenderla in considerazione, e questa è la vita, è teatro. Beh, c'è stato, quando abbiamo fatto lo spettacolo di 35 minuti, diciamo c'è una parte di questo è un cabaret performativo, questo spettacolo. Quindi cioè, a un certo punto all'inizio il cabaret poi diventa performance un po' pazza e iniziamo a ridere in faccia alle persone un botto per un sacco di tempo. E ad un certo punto delle persone si sono sentite male, dicevano ma perché continuano a riderci in faccia? Cioè, e io l'ho accettata questa cosa perché comunque è una reazione. Poi c'era quello che rideva e quello che invece si sentiva attaccato, quello che invece... Però almeno... Voglio dire, c'era un feedback, no? Poi c'è quello che si sente molestato, quello che non si sente molestato, anche perché poi c'è un quadro in cui lei va da un uomo sostanzialmente e comunque... Vabbè, non interagisce. Lo molesta. Interagisce, è cieca nello sketch. Lei è cieca, non ci vede, quindi... Quello che succede, succede. Quello che succede, succede. E anche lì, cioè, se ti senti molestato, ti senti molestato. Anch'io mi sento molestata molto spesso, quindi... Amen. Guarda. Certo. Sto pensando che anche in questa rottura della quarta parete anche per voi è un po', cioè sempre così, però nel momento in cui appunto decidi di affidare così tanto alla reazione del pubblico, poi anche per te diventa un po' un vediamo cosa succede. Beh, certo. E quindi diventa appunto molto più vivo, sì. Ma anche vivo, cioè reale. Sì, anche perché che palle, hai scelto di fare l'attore e ogni giorno devi fare la stessa cosa, che palle, cioè ogni giorno è sempre lo stesso copione e sempre sai che lì piangerai, che lì riderai, che lì ovviamente devi avere un canovaccio, cioè non è che io vado a saltare nel vuoto, chiaramente so che poi mi posso appigliare un po' di qua, un albero di là, una liana, cioè, però posso trovare animali diversi mentre salto, cioè nel senso posso... Sì, cioè bisogna sempre ricordarsi che c'è un margine di libertà calcolabile fino a un certo punto e poi alla fine il lavoro dell'attore è lì in quel momento, quella sera, con quelle persone, con quell'energia. Sì, ed essendo poi la struttura drammaturgica costituita proprio da quadri, sketch, scene, diciamo che ci bilanciamo tra quadri costruiti, più fissati, come diceva prima, magari monologhi proprio costituiti, e altre scene in cui invece c'è più un margine di azione, anche di improvvisazione e di interazione con quello che è il pubblico specifico della serata. Quindi ci piace anche giostrarcela in questa maniera, proprio per ascoltare anche quella che è la reazione reale poi del pubblico e anche nostra in scena. Non so se c'è qualche domanda dal pubblico. No, niente. No, niente. Allora, io forse ne ho un'ultima. Fai una domanda, Giuseppe, sei il mio fidanzato. Fai una domanda. Dai, Giuseppe, fai la domanda. Stavo pensando che fammela pensare. Scusa. Ma il microfono non ti aiuta a pensare? Allora, mentre okay. Giuseppe pensa, no, mi chiedo se ci sono dei temi particolari che avete voglia di trasmettere, quindi anche sul femminismo sono un po' più curiosa di capire la vostra posizione, cosa volete trasmettere, come lo volete fare. Non so se si può svelare questa cosa, rovina lo spettacolo. Allora, fondamentalmente, cioè, io non credo nei valori, cioè, mai, a nulla. No, scusa, diciamo, quindi... dei temi, non lo so, appunto, particolari che vi stanno a cuore, che sentite magari di voler raccontare. Ma sicuramente già noi tre insieme siamo un po' un manifesto. Certo. Già, manifesto di più. Secondo me lo siamo già. Adesso sanno fare il proprio mestiere sostanzialmente. E lo dico senza vergogna, perché comunque oggettivamente io so che siamo brave e non mi vergogno di dirlo. Poi chiaramente siamo in un periodo storico in cui si divide tutto, perché poi in Italia soprattutto c'è questa concezione che se un prodotto è comico non può essere anche drammatico, se invece è drammatico non può essere anche comico, quando nella vita cioè quanto cazzo fa ridere, cioè capito, vedere uno che le prende da un altro, cioè se tu ci pensi, cioè se ci pensi quanto fa ridere quando ti lasci col tuo fidanzato se lo vedi da fuori, cioè fa riderissimo, è sempre tragico, cioè, è sempre tragico, non c'è mai dramma e basta, a meno che in situazioni chiaramente dove non c'è un cazzo da ridere, però comunque non è di quello che si parla in una serie cioè, TV di Netflix, cioè effettivamente noi quando ci parliamo e facciamo brainstorming alla fine arriviamo sempre con tanti aneddoti tragicomici che ci sono successi, magari non ci siamo raccontate, poi tipo ci diciamo vabbè questa comunque è bella, cioè questa comunque è bella, cioè potremmo sì, lei ha delle frasi dette da dei tipi stupendo. Cioè che le hanno detto le cose assurde, le hanno scritto poco con l'accento, le hanno scritto poco con l'accento, non se lo merita nessuno, non se lo merita con l'accento e cioè, soprattutto due po' con l'accento nello stesso messaggio, esatto. Cioè meno. Ragazzi poi gli hanno, cioè ma lei se ne esce con delle cose incredibili, cioè, quindi sì, anche un po' basato sulla vita personale, sulla vita vera, senza l'obiettivo di risultare comiche, ma è così, se uno ti lascia scrivendoti poco con l'accento sei stato bravissimo, grazie. Ma certo, piuttosto che niente, piuttosto. Hai passato il test, puoi venire. Vabbè, insomma, e quindi niente. No, ragazzi, grazie, comunque mille, potete parlare, cioè se qualcuno vuole dirci stronze, cioè ce lo potete dire. Non me ne frega un cazzo, però siamo potete qua dirmelo per questo. Va bene, dai, facciamo fare un applauso. Grazie mille. Proprio applauso, ma perché? Ma perché applaudite? Per loro, per la partecipazione. Va bene. Grazie mille a grazie. Tutte e tutti. Grazie e a voi per l'invito. Grazie. Ragazze, ma grazie veramente. Grazie soprattutto davvero. Per aver detto che non abbiamo spazio per esprimerci all'inizio. Che lei ha detto, perché accogliamo queste donne drammaturghe che non hanno altro spazio effettivamente. Ma adesso ho capito per quale motivo. No, sto cagando sotto. Quindi no, grazie, beh. Ma abbiamo anche la scorta fuori per caso. Assolutamente. No, ma c'è un tappeto rosso con anche delle rose, dei petali di rosa che lo aspetta. E poi ci ammazzano. Esatto. E poi come esatto, Clitennestra Agamennone, esatto, perfetto. Esatto. No, grazie mille. Veramente, siete grazie, delle grandi. Davvero. Grazie davvero. A voi. Ci vediamo martedì. La prossimo. Puntata è riascoltabile sempre sul sito di Exalge ed eravamo in diretta radio. Oh, e la prossima volta è? È il 27 novembre con Alba Sofia Vella. Yes. No, mi è piaciuto molto questo testo.